dal punto di vista storico, perché ci racconta come nell'immediato vennero trattati quei temi nel contesto pop sanremese. Fu una canzone che vinse il premio della critica e superò brani che probabilmente adesso sono molto più ricordati dal grande pubblico, come Strani amori della Pausini o Cinque giorni di Zarrillo, che però sono del classico, fanno parte del classico filone sanremese delle canzoni di ultramore, ecco. Assolutamente, è proprio così, e quest'oggi appunto parleremo di mafia, parleremo di nuovo di quegli anni appunto tra il 92 e il 94 approssimativamente, e lo faremo con un ospite che ci accompagnerà e che tra poco insomma troverete, anzi magari lo conoscete già, ce lo auguriamo, perché lui è un bravissimo giornalista, si chiama Luciano Scalettari, insomma è sulla piazza, come si suol dire, da ormai oltre 30 anni, ha scritto anche molti libri, tra cui insieme a Luigi Grimaldi 1994, l'anno che ha cambiato l'Italia, è uscito per Chiare Lettere nel 2010 e nel 2019, sempre insieme a Grimaldi, è stato curatore anche di Ilaria Alpi e Mira Rovatin, Depistaggi e Verità nascosti a 25 anni dalla morte. Perché? Perché proprio insieme a Luciano Scalettari ripercorreremo gli anni, la presenza della mafia, il ruolo della mafia nella crisi politica della Prima Repubblica, ma non parleremo solo, non soltanto di insomma la strage di Capaci del 23 maggio 92 o della successiva strage di Via D'Amelio del 19 luglio 1992, che costarono la vita, no, ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche agli uomini della scorta o alla moglie dello stesso Falcone, e non solo delle bombe del 93, no, quelle di Via dei Georgofili a Firenze, era il maggio del 93, o del mese di luglio via Palestro a Milano, sì. E poi anche quelle a San Giovanni Laterano e San Giorgio in Velabro a Roma, insomma in totale parliamo di una decina di vittime, ecco, in una crisi politica che era enorme, una crisi proprio del sistema dei partiti, ne abbiamo già parlato qui nelle puntate scorse con altri ospiti, ma insieme anche a Scalettari parleremo di altri... altre stragi, altri omicidi, altri avvenimenti in cui la mafia ebbe un ruolo e magari di questo si è parlato meno, come proprio l'omicidio nel marzo del 94 a Mogadiscio in Somalia della giornalista Ilaria Alpi e del cameraman Mira Rovatin. Andiamo a sentirci Banzo una canzone, poi rientriamo e continuiamo a parlare ancora di questi temi. Lui sì, dopo presentarla brevemente, perché poi ci collegheremo col nostro ospite. Questo brano si intitola Che cos'è la mafia? Perché tutte le canzoni avranno questo filo tematico, lo possiamo dire, ed è un brano di Ciccio Busacca, un cantastorie siciliano classe 25, che nel corso della sua vita, insomma, ha frequentato questi ambiti di impegno e denuncia, ad esempio partecipando allo spettacolo Ci ragione canto, che ci rimanda alla recente puntata dedicata a Giovanna Marini, e dalla sua collaborazione con Ignazio Buttita, una delle più importanti voci poetiche siciliane del Novecento, sono nati brani come L'Utreno dell'Usuli, Lamento P. Turiddu Carnivali, la pronuncia siciliana è migliorabile, e questa ballata Che cos'è la mafia, che è lunghissima in versione originale, la vocazione del cantastorie, appunto 9 minuti, quindi ve ne presenteremo un estratto che comunque è molto significativo. Ben fatto, chiaro, preciso e puntuale come sempre, andiamoci ad ascoltare Ciccio Busacca, Cos'è la mafia? La mafia, io ve lo dico cos'è la mafia, non è la carestia la mafia. Non è la peste la mafia, non è nemmeno la guerra la mafia, ma come la carestia, come la peste e come la guerra, semina morti e fa danni la mafia. Sentite. Cos'è la mafia, si dice allo spisso, che tiene la Sicilia dall'abisso. La mafia che porta bene lutti, e ti codici e lì ci se ne fotte, e ti codici e lì ci se ne fotte. Cos'è la mafia, che scanna e che spara, ed usa per sentenza la lopara, chi su si dice e l'esto vi rispondo a tutti le persone dello mondo, a tutti le persone dello mondo. La verità vi dico, la cancrena della Sicilia è la mafia. Lo mio discorso è logico e preciso, calo la mafia di lo paradiso. Non gridi dica su siciliani, razza bastarda su come le cani, razza bastarda su come le cani. Non sono siciliani. La mafia e la Sicilia sono due cose, lo stesso come dire spine e rose. Due cose differenti per natura, la mafia puzza, la Sicilia odora. La mafia puzza, la Sicilia odora. Non sono siciliani e non sono nemmeno amici nostri. L'amici della mafia su certone, ben conosciute e nobili persone. Devo dire la fide delle sante, con funzioni e cariche importanti. Con funzioni e cariche importanti. Serve da amici delle mafiose, se fanno responsabile da bose, di angari, di prepotenze e imbrogli, per fine elettorale a partafogli, per fine elettorale a partafogli. Su secoli che adora sta canzone, la mafia ingrassa e gonfia le polmone. Si modernizza, allarga le sorride, diventano dirigenti dei partiti, diventano dirigenti dei partiti. Tutti la parte le concessioni, la vela mafia, la mafia despone. La mafia raffa, imbere e falligi, lo Stato d'una e la mafia sigi. Lo Stato d'una e la mafia sigi. Lo Stato dà e la mafia ingassa. Riscuote, fosse soltanto questo, fosse niente. La mafia spara, la mafia ammazza. La legge della mafia è la scoperta, la lopara. E c'è la morte a cui non la rispetta. Cui vita sta per deve stare muto, per chi si parla è pronto lo tappoto, per chi si parla è pronto lo tappoto. La cassa da morto è sempre pronta. E abbiamo ora in collegamento telefonico con noi Luciano Scalettari, giornalista con una lunghissima carriera alle spalle, ha lavorato con diversi quotidiani, ha collaborato con molti media e soprattutto si è occupato di diverse inchieste, tra cui anche quella sul delitto Ilaria Alpi e Rovatin. Nel 2019 è uscito anche un libro curato insieme a Luigi Grimaldi, e con Luigi Grimaldi tra le varie pubblicazioni ha scritto anche un volume uscito per i tipi di Chiare Lettere intitolato 1994, l'anno che ha cambiato l'Italia. E proprio per questo abbiamo deciso oggi di invitare Luciano Scalettari, a cui do subito il benvenuto a Zibaldone. Luciano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Un piacere averti con noi per trattare un tema complesso. Ovviamente non abbiamo il tempo di entrare in tutti i dettagli, ma insomma in questa serie di puntate che i nostri ascoltatori già conoscono, intitolate 30 anni fa, torniamo a quella frangente, quella congiuntura della storia politica italiana molto complessa, insomma tra la fine della Prima Repubblica e l'inizio di una cosiddetta Seconda Repubblica. Uno degli attori che ha giocato un ruolo in quegli anni è senza dubbio la mafia. Insomma, poche settimane fa correva l'anniversario dell'attentato di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone, la moglie, la scorta che lo accompagnava. Un attacco allo Stato in cui la mafia, Luciano, fece un salto con la strategia che stava utilizzando. Ma sì, anche perché in realtà fu anche un omicidio quello di Falcone, poi quello Falcone la scorta e poi quello di Borsellino nel luglio seguente, dove la mafia ha voluto mostrare che era in grado di fare, quindi avrebbe potuto eseguire lo stesso tipo di omicidio nell'eliminazione dei due magistrati più noti in quel momento in prima linea sulla mafia in maniera meno eclatante. È stata una scelta quella di renderlo eclatante proprio per far vedere la forza di antistato che aveva in quel momento Cosa Nostra, sicuramente. Quindi senza poi contare naturalmente l'effetto di andare a eliminare i due magistrati più noti, più in prima linea, che tutti gli italiani identificavano come coloro che stavano combattendo la mafia in quel momento. Sì, ovviamente l'attentato successivo, il mese di luglio, che tu ricordavi, con la morte di Paolo Borsellino, e poi nel 1993 tutta una serie di attentati a Firenze, a Roma, a Milano, tra i mesi di maggio e luglio. Insomma, pensandoci guardando indietro a ormai 32, 31, 30 anni fa, ecco, insomma, a che gioco stava giocando la mafia e soprattutto che ruolo ebbe, secondo te, nella crisi politica che insomma chiuse la tappa della Prima Repubblica? In un mondo che si stava sfaldando politicamente, anche di ovviamente rapporti esistenti, ecco, la mafia che ruolo ha giocato e che obiettivo avrebbe voluto ottenere in quel contesto? Ma allora, io diciamo che mi sono trovato a occuparmi di quella vicenda più degli attentati del 92-93 e del mancato attentato, ricordiamolo, dell'inizio 94, più che degli omicidi di cui parlavamo poco fa di Falcone Borsellino, perché come dire, un'inchiesta che era partita per andare a capire i voluti depistaggi istituzionali di più o meno alto livello che erano accaduti sul caso Alpi, che noi consideriamo uno dei grandi misteri d'Italia, anche se magari, come dire, nel percepito collettivo non è considerata una ustica o appunto una bomba di mafia del 92-93, ma dopo al limite cercheremo di spiegare perché. Però in questo tipo di inchiesta, incredibilmente per noi all'epoca, mentre raccoglievamo il materiale per fare il libro, noi intendendo io e Luigi Grimaldi, ci trovavamo continuamente ad andare a incrociare altre vicende, tra cui quella delle bombe del 92-93. Quindi per me, che insomma non mi ero occupato in maniera episodica, saltuaria, di questioni, diciamo così, mafiose, è stata in un certo senso una sorpresa non solo scoprire via via questi legami che andavano dalla mafia alla massoneria, all'estrema destra eversiva italiana e ad alcuni omicidi eccellenti come quello di Rostagno, come quello di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma contemporaneamente capire questi elementi di un disegno che era decisamente molto sofisticato e molto complesso, dove la mafia in realtà giocava un ruolo sicuramente da protagonista, ma in un certo senso sembrava quasi essere agli ordini di qualcun altro, o quantomeno in compartecipazione su un disegno complessivo che aveva come obiettivo quello quantomeno di rendere, di spezzare, di spaccare l'Italia in tre grandi aree con un'ampia autonomia, ma forse nel progetto iniziale addirittura di arrivare a una spaccatura vera e propria, cioè a tre Italie che si dividevano, perché si arrivava a un nord leghista, un nord che si autogovernava come tra l'altro motore economico, bla bla bla, un centro Italia e un sud Italia che alla fine veniva consegnato alla mafia. Dentro un disegno così grande, così importante, anche con addentellati internazionali, la mafia gioca un ruolo molto importante, perché per la prima volta, come sappiamo, decide di fare degli attentati che dalla Sicilia vengono definiti in continente, quindi nel territorio italiano extrainsulare, e va a colpire attraverso delle bombe che devono creare il panico e la disgregazione sociale, politica della comunità degli italiani, quindi creare la paura, creare il clima che in qualche modo prepara la strada a un disegno di cambiamento costituzionale, istituzionale del nostro paese. E gli attori che operano insieme alla mafia, gli elementi che emergono sono appunto da un lato ambienti massonici, dall'altro l'estrema destra eversiva italiana e non solo, quindi anche con collegamenti con alcune destre diciamo europee, comunque extraterritoriali, diciamo. E tutto con una tempistica con una capacità anche di colpire nei luoghi e nei momenti più opportuni, mentre contemporaneamente succedono altre cose. Succede appunto il boom della Lega, succede Nord, la congiunzione di Lega Nord e Lega Lombarda e Lega Veneta, la fioritura che poi portirà, ma per altre ragioni, delle leghe del sud, quindi come dire creare anche le realtà che potevano diventare le realtà politiche protagoniste a nord e a sud di questa spaccatura, di questo frantumarsi dell'Italia. E contemporaneamente abbiamo l'altra grande enorme crisi, che è la crisi della Prima Repubblica, provocata diciamo da Mani Pulite, quindi dallo scoperchiamento di questa di questo vaso di Pandora della corruzione, di tutto quello che sappiamo essere venuto fuori a partire dal famoso 14 febbraio 1992 con l'arresto di Mario Chiesa, che poi è dilagato in questa stagione delle inchieste e degli arresti dei politici, a fine della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, tutto quello che insomma ha portato in un arco di tempo che poi va sicuramente da prima del 90. Noi abbiamo intitolato, anzi abbiamo spesso presentato questo libro intitolato 1994, scrivendo che è un anno lungo 6 anni, quindi che ha avuto questa preparazione, questi eventi che hanno via via preparato, che hanno portato le bombe in continente, che hanno portato tutte le cose che stavo dicendo prima e che hanno in qualche modo un momento conclusivo e di sintesi e di riequilibrio di una serie di situazioni dal punto di vista politico e non solo, anche rispetto alla mafia, il 27 marzo del 94, cioè il momento in cui si sancisce di fatto la nascita della Seconda Repubblica, con la vittoria del tutto in attesa in quei mesi precedenti di Forza Italia, che diventa un momento di sintesi e di riequilibrio, cioè di nuovo si riallacciano quei rapporti, quella relazione fra politica e mafia che si erano interrotti nel momento in cui il maxi processo decapita di fatto Cosa Nostra e si rompono i rapporti con diciamo quei personaggi politici che avevano mantenuto le promesse e fatto da garanti, diciamo così, rispetto alla Prima Repubblica. E certo, insomma, poi aggiungiamo proprio all'inizio del 1992 l'arresto di Totorina e poi da lì, insomma, già il primo evento importante, no, di questa nuova strategia mafiosa, con l'omicidio di Salvo Lima, no, l'uomo di Andreotti in Sicilia, per riassumere e semplificare un po'. È l'omicidio simbolo che rompe il patto, sì, fino a quel momento in vigore, diciamo così, tra adesso è forte dire tra Andreotti, tra un certo mondo politico e Cosa Nostra. E a questo proposito citavi appunto il libro che hai scritto con Luigi Grimaldi, che è stato pubblicato ormai un po' più di una decina d'anni fa, 1994. Ecco, voi lì raccontate questo anno lungo 6 anni, no? Dall'88 al 94, a partire soprattutto da 4 storie: il delitto Rostagno del 1988, la tragedia del traghetto Moby Prince del 1991, gli omicidi dell'ufficiale del Sismi Vincenzo Ricausi del 93 e poi quello già citato di Alpi e Rovatin nel 1994. Come si legano, appunto, ci puoi magari possiamo entrare un pochino più in dettaglio per capire appunto questo il legame tra questi 4 eventi e come appunto tutto ciò sfocia poi in quello che ci stavi spiegando, ossia in un nuovo patto, un nuovo equilibrio, no, a partire dal marzo del 94. Allora, diciamo in maniera molto schematica, lo stagno viene ucciso in Sicilia da esecutori materiali, di cui uno mafioso è stato condannato in via definitiva, ne era stato condannato un altro che poi però è stato assolto e quindi poi è uscito di scena, ma uno rimane condannato. Su quel caso c'era anche un'inchiesta parallela che poi non ha mai portato in realtà a un processo, che era proprio, come dire, quella dei mandanti remoti dell'omicidio dello stagno, quindi più gli altri componenti che avevano interesse al fatto che lo stagno venisse fatto fuori. Quindi, diciamo, la procura di Palermo, l'antimafia di Palermo, aveva già disegnato il fatto che lo stagno fosse persona da eliminare, non solo da parte della mafia, anche se anche in quel caso gli esecutori materiali sono della mafia. E noi arriviamo a occuparci dell'omicidio allo stagno perché una delle dei misteri che sono rimasti più o meno tali dell'omicidio allo stagno è questa cassetta che lui avrebbe filmato sui bordi di una pista che avrebbe dovuto essere in disuso militare nei pressi di Trapani, che avrebbe filmato il caricamento, il portare a bordo delle casse di materiale bellico, di armi e altro, mentre veniva scaricato materiale umanitario, diretto in Somalia. Di questo alla fine la procura di Palermo, prima mi è sembrata per lungo tempo quasi una leggenda questa cosa, questa cassetta filmata ma poi scomparsa, mai trovata, di cui lo stagno ha fatto cenno ma non se ne trovava e non se ne è mai trovato poi la prova provata, ossia la cassetta, perché sono le due copie che lo stagno aveva fatto, erano scomparse. Però diciamo che la procura di Palermo è riuscita a raccogliere elementi tali sul fatto che lo stagno avesse detto a più persone e confermato di aver fatto questa registrazione, che oggi viene considerata non una leggenda ma un fatto reale, e una delle possibili ragioni per le quali si è decisa la sua eliminazione. La cosa curiosa è che a capo del non tanto del servizio segreto in generale, ma di Gladio, o di quello che era allora Stay Behind, per usare la sigla corretta, diciamo, di Trapani, su quella pista è Vincenzo Li Causi, cioè un'altra delle figure che hai nominato poco fa, che viene ucciso il 12 di novembre del 93 a Mogadiscio. Li Causi, oltre a essere una figura di primissimo piano, di spicco direi, dei servizi segreti, della settima divisione del SISMI, che verrà poi sciolta nel 92 dal allora capo del CESIS Fulci, essere sospettata di essere, come dire, uno stato nello stato, di essere così fuori controllo, ecco. Quindi chiamiamo, come si usa dire, anche se è una frase che mi fa un po' sorridere, servizi segreti deviati, certo, che insomma trovavo dentro questa settima divisione, ma è soprattutto capocentro dei cinque centri di Gladio in Italia, o di Stay Behind, se vogliamo usare la formula. E c'è questo strano ponte, nel senso che lo stagno viene ucciso, ha filmato questa cosa, e su quella pista c'è Vincenzo Li Causi, il quale viene mandato in Somalia fin dall'inizio di fatto della missione italiana in Somalia, e viene mandato in Somalia dopo che la struttura Gladio è stata rivelata, un po' a sorpresa, ma per ragioni ben comprensibili da Andreotti, nel momento in cui si è reso conto che non poteva più farne a meno per via delle inchieste di Felice Casson e di altri magistrati che ormai trovavano indizi della sua esistenza in ogni dove. E quindi va in Somalia nel 92 e non poi avevamo, come dire, nel lungo lavoro che avevamo fatto sul caso Alpi Rovatin, già ben individuato Vincenzo Li Causi come informatore e persona che aveva a che fare con i due giornalisti, diciamo, con Ilaria Alpi fondamentalmente, perché va ricordato che insomma poi Miran Rovatin accompagna Ilaria Alpi in quell'ultimo viaggio, ma Ilaria Alpi ne fa sette nel corso della missione italiana in Somalia. solo nell'ultimo viene accompagnato da Rovati, negli altri viene accompagnato normalmente da Alberto Calvi, da un altro operatore interno Rai. E quindi Li Causi è come dire il filo rosso che porta al caso Alpi, o se vogliamo dal caso Alpi si arriva a Li Causi, sì. Prendiamolo da che parte vogliamo. Sì. Qual è la particolarità? Che la cosa particolarmente direi curiosa, che la ragione più importante, decisiva, che porta alla decisione di eliminare i due giornalisti, ovviamente, come dire, l'obiettivo principale di Ilaria Alpi, che sta conducendo l'inchiesta, Milena Rovatin si trova semplicemente con lei, e quindi paga le conseguenze di averla accompagnata in quell'ultimo viaggio. Ma è una cosa molto specifica, che è una la presenza di una nave, di un gruppo di navi, una piccola flotta di pescherecci che l'Italia ha regalato alla Somalia, negli anni della peggiore, più buia, più corrotta cooperazione italiana con il Corno d'Africa, gli anni che vanno dal 94, dall'84 al 91, la flotta arriva tra l'86 e il 90, di fatto insomma diventa proprietario la Somalia, lo Stato somalo nel 1990, e sono dei pescherecci, uno dei quali finisce sotto sequestro da parte di pirati somali della, chiamiamola, guardia costiera del Puntland. È difficile poi la distinzione di casacche in una situazione come quella somala della guerra civile, e viene bloccata ai primi di marzo fuori dalle acque di Bosaso, che è un luogo lontanissimo da dove va Ilaria Alpi per documentare, per fare i servizi sul momento finale della missione italiana in Somalia, perché il 20 marzo, che è anche la data della sua morte, del suo omicidio, è la data in cui l'Italia abbassa la bandiera, cioè finisce formalmente la missione in Somalia. Questa nave, in realtà, al largo di Bosaso, è già sotto sequestro da circa 15 giorni, e del sequestro non sa nessuno. Lo sa l'unità di crisi e lo sanno i servizi segreti. E ora non c'è, sottolineo il non, la prova provata che non Li Causi, che è già morto ovviamente, ma qualcun altro dei servizi informi Ilaria Alpi sulla presenza di questa nave e sul suo sequestro, e tantomeno c'è la prova di chi abbia, non sappiamo l'identità di chi abbia dato queste informazioni, però sappiamo che lo sapeva, e questo è per certo perché fa domande specifiche in una delle sue ultime interviste sulla nave, chiede anche un po', come dire, provocatoriamente di salirvi a bordo. Sappiamo da documentazione successiva che quella nave e le altre navi di quella flotta, a cui diamo nome, flotta che allora si chiamava Scifco, era gestita da una società privata che l'aveva con corruzione, se n'era appropriata perché l'aveva portata via lo Stato somalo di fatto. Negli anni, e anche probabilmente negli anni successivi, ma sicuramente negli anni precedenti al 20 marzo 94, fa traffico d'armi in sodalizio, diciamo così, con altre navi che hanno lo scopo di far arrivare le armi fino all'Europa, fino alle porte, diciamo così, della Somalia, quindi come vettori soprattutto dell'area proprio somala, per portare a terra, diciamo così, le armi, con questa ottima copertura che era il fatto che si trattava comunque di pescherecci. Certo. Quindi che avevano, come dire, delle ottime ragioni per stare nelle acque somale, per arrivare, per andare a terra, e anche per portare il pesce, diciamo così, in Europa. Certo. Allora sottolineo che quelle informazioni le aveva l'unità di crisi e i servizi segreti. Ilaria Alpi le viene informata, perché ne viene informata? Questa è una bella domanda. Rispondere a questa domanda probabilmente ci permetterebbe di aprire qualche squarcio nuovo sulle tante cose che ancora non sappiamo di come è andata, no? di come si è arrivati alla decisione di uccidere i due giornalisti. Sappiamo che lei va lì, fa le domande, siamo a centinaia di chilometri a Mogadiscio, ci va proprio per chiedere di quello, perché ci doveva stare non più di 36 ore, poi gli viene fatto perdere un aereo, deve rimanerci perché non ha più voli di rientro, altri 4 giorni, quando rientra a Mogadiscio lo uccidono. E diciamo che questa è un po' la, che adesso forse ho dimenticato una delle quattro figure, ne abbiamo il Moby Prince, esattamente, rimarrebbe il Moby Prince. Infatti la mia ultima domanda, perché ormai siamo più o meno in chiusura, ma che ti volevo fare è: come rientra il Moby Prince in tutta questa storia che ci porta da Rostagno ai Lari Alpi, passando per Licausi? E allora il Moby Prince sono alcuni fili, uno più rilevante, altri più, se vogliamo dire così, un po' più sottili. Quello rilevante sono le tracce di esplosivo a bordo, dello stesso tipo di esplosivo che viene usato nelle bombe 92-93. Ed è un esplosivo molto particolare, che fa parte di una partita, non dico tracciabile, ma molto identificabile. Ecco. E cosa che è stata anche controversa, perché abbiamo una perizia che poi è stata smentita, ma non si capisce bene con quali... è debole la smentita, quindi resta in piedi questo fatto che sul Moby Prince, subito prima, subito dopo, insomma molto a ridosso di quando avviene quella stranissima manovra che porta il traghetto il 10 aprile del 91 poi a infilarsi nello scafo della Jeep Abruzzo, prendere fuoco e insomma trasformarsi in questa enorme tragedia, la più grave ancora oggi della Marineria Civile Italiana, perché sono morte 140 persone. Ecco, lì subito prima, subito dopo, la rotta che prende, la curva che comincia a fare il traghetto che lo porta a infilarsi nella fiancata del Moby Prince, c'è questa esplosione a bordo, e ripeto, con questo stesso esplosivo. L'altra cosa che come dire, ci è rimasto come il grande interrogativo, cioè tra il 10 e l'11 aprile ci sono due navi che vanno a fuoco, e siamo esattamente negli stessi giorni in cui Gladio viene resa pubblica. Certo. Su questo, come dire, certo, resta una grande domanda. Una delle tante incognite. Mi fermo, nel senso che non avremo né il tempo né il modo di andare nei dettagli e negli elementi che possono far rilevare questa coincidenza di tempi, e sappiamo bene che le coincidenze di tempi raramente sono casuali. Di sicuro sappiamo che sono due gravi incidenti navali molto simili, uno riguarda il Moby Prince e l'altro adesso c'è il classico lapsus sul nome della nave, ma viene davanti alla Liguria il giorno dopo, se non sbaglio, l'11. Chiaro, adesso abbiamo pochi minuti, per cui andare ad approfondire di più tutte le relazioni fra i quattro episodi sarebbe forse anche girare la testa chi ci ascolta. Ma invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a cercarsi il libro che avete scritto insieme a Luigi Grimaldi, 1994, l'anno che ha cambiato l'Italia, è uscito nel 2010 per i tipi di Chiare Lettere, lì se ne parla con tutti i dettagli. Ringrazio davvero Luciano Scalettari che ci ha accompagnato quest'oggi a Zibaldone, giornalista, ha vinto tra l'altro tanti premi e oltre alle pubblicazioni che abbiamo menzionato, tra cui l'ultima sempre con Grimaldi nel 2019 sul caso il delitto Alpi Rovatin, ricordo anche che Luciano sei stato membro durante praticamente quasi un anno della commissione parlamentare d'inchiesta sul delitto Alpi Rovatin, correva l'anno 2004-2005. Luciano, grazie davvero di essere stato con noi, buon pomeriggio e mi auguro a presto. Grazie a voi di avermi invitato. A presto. Si dette rullamano Salvini ancora barricato in casa per sanare piccole irregolarità dai soppalchi ai tramezzi alle verande. Noi obbligati a lottare ovunque, dice. La voce graffiante di Giovanni Toti, fuori classe della Liguria. Tra libertà e mistero e il sound inconfondibile della band Danze F65, nasce così Nessun arricchimento personale, una nuova hit per scaricare le responsabilità su altri governi. E stasera una nuova polemica nel centro-sinistra. Irlanda, Spagna, Norvegia sono pronti al riconoscimento fra tre persone della segretaria del PD, Elish Line, che commenta: hanno perso contatto con la realtà. Scaraventati via dai loro posti sullo sfondo di una splendida Baku, il presidente iraniano Raisi e il ministro degli esteri salutano dopo stagioni immemorabili per ricordare le vittime. Un 35enne ha accoltellato la moglie. Nuove elezioni a giugno, a sfidarsi tra libertà e mistero le guardie della rivoluzione, il generale dei carabinieri Mario Mori e Fabio Rovazzi. Nell'era digitale. Oltre il 70% dei giovanissimi in Italia dice di voler arrestare Totò Riina durante un inseguimento con un altro veicolo. Lo rivela uno studio dell'Istat, secondo cui è possibile. Via libera dunque del governo al decreto che permette di sanare piccole irregolarità. Tra le novità, la mafia è destinata ad essere spalmata su 10 anni e non più 4. Sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, velocissimo, un commento se vuoi telegrafico su appunto queste ultimissime che ci hanno parlato di Toti, Salvini, dell'Iran, insomma un po' di tutto. Benché il problema sia già tecnicamente risolto, trovo lodevole che una percentuale così alta dei giovanissimi voglia arrestare Totò Riina. Diciamo che se avessero la possibilità di tornare indietro nel tempo, forse lo arresterebbero prima di quando poi effettivamente è finito dietro le sbarre. Ecco. Non sarebbe male. E questa comunque è una volontà encomiabile, sicuramente. Banzo, invece parliamo un attimo brevemente di Colapesce, il brano che ci siamo ascoltati poc'anzi, Mafia e Parrini, che in realtà è una canzone di un grandissimo cantautore, cantastorie, un altro dopo Ciccio Busacca, che era Otello Profazio, un brano dei primi anni 70. Esatto, il brano è di Otello Profazio, e però torna anche la penna di Buttitta, che aveva collaborato anche con Profazio. E in questo caso il brano Mafia e Parrini parla del rapporto fra la mafia e il clero. Credo che Parrini significhi preti, ecco, più precisamente. Insomma, un rapporto degno di essere analizzato in modo molto critico, sicuramente. Colapesce ne dà una versione completamente diversa ed è affascinante questo contrasto, perché c'è la volontà e il riconoscimento di questa tradizione, ma anche il progetto di rappresentarla in un modo diverso da quello più usuale, diciamo. E comunque, se volete approfondire questo discorso del cover di Colapesce, il brano che abbiamo sentito è tratto da un album intitolato Nove Cover, che era una specie di strenna allegata alla seconda edizione del suo album d'esordio Un meraviglioso declino nel 2012. Sì, vale la pena dire che al di là di Otello Profazio, insomma, tra queste nove cover c'era anche Antonello Venditti, ma addirittura anche Mauro Repetto. Ecco, non diciamo altro al riguardo, magari ci torneremo. E noi invece, visto che il tempo è tiranno e ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata, andiamo subito a Bomba Banza ad ascoltarci un altro brano. E troviamo un'altra voce importante della Sicilia dal punto di vista della canzone, soprattutto degli ultimi 30 anni, quale Carmen Consoli, in questo caso accompagnata dai Lautari. Sentiamoci questo brano. Cure de campo che cresce fuori di campo nascesti. Era terra di fecere madri, come fuori di campo crescesti. È la lotta di fecere di padri. Avete sentito gli applausi, perché questa versione era un live al concerto del primo maggio di Roma. Banzo, questa canzone è importante, no? Perché è un tributo a Peppino Impastato, che è una figura fondamentale, se vogliamo, no? È diventato, insomma, un simbolo della lotta contro la mafia. Sì, potremmo dire che forse è anche la figura che è diventata più pop, se non vogliamo fraintenderci, perché questo termine potrebbe, sì, potrebbe implicare una sfumatura spregiativa che non è mia intenzione trasmettere. E, comunque, sì, ecco, questa è una, il testo di questa canzone è una poesia pubblicata postuma di Peppino Impastato. Prima dicevamo, forse è più Carmen Consoli a accompagnare i Lautari, perché il brano è stato pubblicato in un album del 2007, Arre, di questo gruppo folk catanese, e Carmen Consoli appunto sale con loro sul palco del primo maggio e la interpreta. E questa incisione che abbiamo sentito appunto è stata utilizzata per una compilation uscita l'anno successivo, quindi nel 2008, per Manifesto Dischi, Amore non ne avremo, che raccoglieva 26 canzoni dedicate a Peppino Impastato. Andate a recuperare anche questa se potete, molto interessante, soprattutto per la varietà musicale, perché ci sono nomi molto molto variegati, anche lontani dal folk: Perturbazione, Uzeda, Gli Zui, Marta sui tubi, quindi molti siciliani, ma non solo, anche 24 Grana, napoletani, quindi una scaletta di grandissimo interesse per un personaggio che merita tutta l'attenzione che sta ricevendo postumamente, purtroppo. Eh sì, e tra l'altro il titolo era Ciuri di Campu, letteralmente fiore di campo, che insomma si basava questo testo da una poesia pubblicata postuma dello stesso Peppino Impastato, e appunto sul pop, no, la figura pop, che aveva assolutamente ragione Banzo, insomma lì l'importanza del film I Cento Passi, no, con Peppino Impastato interpretato da un incredibile Luigi Locascio. E noi siamo ormai davvero ai saluti, perché ci resta giusto il tempo, Banzo, per un brano dove facciamo un po' un salto indietro nel tempo e torniamo ai primi anni 70 con I Giganti addirittura. Sì, esatto, anche nello spazio, perché appunto a parte Falletti in apertura, gli altri brani erano di artisti variamente legati alla Sicilia. Giganti erano un gruppo milanese, però hanno a che vedere con la mafia, perché nel 71 pubblicarono un coraggiosissimo concept intitolato Terra in Bocca, poesia di un delitto, che era appunto un album su un delitto di mafia, in un contesto in cui ancora di mafia non si parlava, non, con la coscienza che ce n'è adesso, diciamo. E fu un insuccesso commerciale clamoroso, che praticamente portò allo scioglimento del gruppo, e non fu riproposto dal vivo fino alla reunion nel 93, quindi un disco che rimase dimenticato per moltissimi anni, ed è un peccato, perché al di là dell'importanza del messaggio portato con grande dignità e coraggio, è un album musicalmente molto valido che portava I Giganti dai territori più beat alla temperie prog di quel momento. Ecco. Sì. Noi ci andiamo ad ascoltare il brano intitolato Lungo e Disteso, scritta dal cantautore Piero Rossi insieme a uno dei giganti, Mino De Martino, ma tra i musicisti accreditati troviamo insomma anche nomi molto conosciuti come Ares Tavolazzi ed Ellade Bandini. Noi vi salutiamo, vi ridiamo appuntamento alla prossima settimana, venerdì, ci stiamo avvicinando la seconda metà di giugno, e quindi ci rimangono ancora poche puntate di Zibaldone di questa stagione, ma insomma un po' di tempo ancora per stare insieme ce l'abbiamo. Venerdì prossimo risintonizzatevi su Radio Contrabbanda per un'altra ora insieme dalle 17 alle 18 qui con Zibaldone. Niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Tierno Galván, che alle 17:55-56 tutti i venerdì era solito dire: è un vero peccato che per ragioni di tempo non abbiamo potuto ascoltare questa hit di Toti insieme agli Eiffel 65, nessun arricchimento personale, magari la mettiamo in apertura nella prossima puntata, dai. Ci pensiamo, ciao Banzo, buona serata a tutti, buon weekend. Lungo e disteso t'hanno trovato, con quattro colpi piantati nel petto. A tradimento t'hanno sparato senza neanche darti il sospetto. Ora tu giaci senza le scarpe dentro un cespuglio di bianco spino, mentre sul mare vanno le barche che ti ricordano fin da bambino. Qualcuno corre già nella via mentre passando la polizia, porta il tuo corpo ormai senza vita alla tua casa ancora assopita. Qualcuno corre già nella via mentre passando la polizia, porta il tuo corpo ormai senza vita alla tua casa ancora assopita. Quando ti vedono i tuoi parenti si levano subito pianti e lamenti. S'alza tuo padre con la doppietta, corre ansimando per fare vendetta. Lui certamente conosce chi è stato e già lo aspetta al crocevia. Poi quando passa lungo il fossato gli spara in faccia e così sia. La gente sboccia le viole e una ragazza si sente male. Dentro la terra t'hanno calato, davanti al mare tuo primo amore, non puoi far nulla del tuo passato. quante illusioni tu ti eri fatto su questa terra, e hanno abbattute senza ragioni, come si abbatte un soldato in guerra. Lungo e disteso t'hanno trovato, con quattro colpi piantati nel petto. Tu ti credevi quasi immortale ai 16 anni, ma sei morto lo stesso.